fare lunedì o martedì adesso. Gli ho detto che senz'altro aveva problemi di barretta sotto, che non ha graffiato la carrozzeria senz'altro. Ecco perché non esce. A parte quello io gli ho detto, bello mio, lì devi controllare anche le stazionali con il rollmat. Ma se non ne aveva, allora gli ho detto, ma una cosa, vai da Antonello, ti fai piazzare l'antenna, la luce a tutto, te la mette, te la registra, te la prova, nelle varie stazionali e tutto quanto, già non ti strozza, gli ho detto, dici che ti ho mandato io, dettotela. Ehi, già me l'ha detto, già me l'ha detto. Già viene questo lunedì o martedì, già gli ho detto di non preoccuparsi per il prezzo, ho detto non devo ammazzare nessuno. Io gliel'ho detto, adesso non so, ha piazzato un'antenna, si può dire che quasi piazzata tu, solo vuole registrata e tutto, non ti strozzerà, paghi ti piglia 20 euro, 30 euro, cosa ne so, una cosa del genere. Però cazzo, esci bene tutto quanto, non rischi di bruciarti il barattino, perché se non sai neanche quanto stazionale c'è, infatti mi arrivi a bacio, ed è qui vicino alla puntana della viga, e io non vi lavo di via, vicino a casa. È positivo. E già devo controllare, adesso dici che è passato un medio martedì, mi ha detto qui, non ci sono problemi. Ti do il numero, lo telefono, già non si incazza, Antonella, se ti posso un favore, e te la sistema lui ti sistema anche baracchini, ce n'è da aggiustare, radio, televisore, chi su che fa, già, e mi ha detto c'è il tecnico, la gente è un tecnico, già sa fare tutto e poi già è bravo. Sì, positivo, già va bene. Adesso lunedì o martedì verrà qui, già non c'è problema. Ui, c'è un caldo, cazzo. No, come pare, dice. Ehi, 35 gradi, beh, pura. Io poco fa ho acceso le pompe di calore. Solo che qua nella veranda c'è di cucina, ha chiamato tre volte. Sono giunti e adesso c'è qualche perdita nel perdere il gas, ma non ha consumato, a chi l'ha di peso? 300, 200 a attaccamilla, più di denari l'ha occupata, più 80 euro la prima, la seconda volta che non funzionava, da quei mesi non funzionava più, e giù ci me l'ha caricato, ma è durata un mese non funzionava, l'ha chiamato un altro, mi l'ha caricata, mi ha detto c'è dispersione, dice, bisogna smontare la macchina, portarla in deposito, metterla sul banco e provarla. E la dice, cazzo canto mi gusta, non posso prima comprarmi né una roba. Cazzo, ma dimmi tu, le cose infatti le conviene così, ma ti piace chi? Ma dico bene nuovo, fai prima, fai, non sai, ti compri lo spizzi nuovo, quello che ci vuole, è la pompa di calore, nuova. La prima come cosa una cazzata costa. Se le porti via una e i tubi c'hai già installati, a meno che non c'hai di perdita in quei tubi lì, tanto ti danno il kit completo, mi sembra sono 5 metri di tubo, non mi ricordo adesso. Ehi, no, ma io volevo provare a comprare quello spray che vendono lì alla Bricomen, costa 5-6 euro mi pare. C'è scritto, cerca pure, si spruzza qualcosa dentro lì. Lo stavo leggendo io nel catalogo l'altro giorno. Ma magari può essere che con quello, a spruzzarglielo solo la divisa per zona carica e mi costa un altro 80 euro. E se davvero non funziona, si l'ha fatto 80 euro più l'isegnito. Cazzo mi verrà a costare che ha bombagato. Già ne ho speso un casino, fino adesso assurdi, ed è sempre la matessa. Appunto per quello, siccome ti compari direttamente tutto nuovo, ce l'abbia in curumi. Ci ho detto fai prima, ti compri la pompa di calore nuova, il kit completo e e sei più sicuro. Quella vecchia al limite te la metti in campagna, di non vai a dove comprare i tubi nuovi, te la salire in campagna quella vecchia, capito? Ci vuole poco riagganciarla, passare a comprare quei tubi lì, e una volta che te la carichi ti la vedi subito se la bevi da qualche malicotto o cosa. No, ma non mi hai capito. Questa io l'ho caricata due volte, deve esserci qualche perdita, capito? Mi dura un mese, da qui si esaurisce il gas, evidentemente non funziona più, hai capito? Ma non mi conviene ricaricarla oppure spostare di questo cercapugue e ricaricarla, ci dà poi me lo darà per lì. Tanto male mi ne compare giù da 300 euro, tanto la zappa ci sono, i tubi ci sono, e poi quelle che vendono sono già cariche. Questa io quando l'ho comprata me l'hanno piazzata, era già carica, capito? Positivo, fai così allora. Ma sappiamo di che magari non lo so, bisogna avere gli attacchi di fili con l'impianto che hanno fatto qua, cosa ne so. Io non ci ho neanche guardato, la volta me l'hanno piazzata, se no me l'aveva fatto io. È sempre un mezzo casino, sempre chiamati, anche se io la compro, per Dio, te la bricco, ma ti sapete che c'è uno a piazzatina, se ti vedi pure, più a piazzatina che ha di canto la baglia, hai capito? Così mi è cusciata lì, mi è cusciata di più, la c'ha tutte di questi aghiti e ha comparata. Ecco, è logico. Vabbè, io faccio 120 euro vanno per installarti la pompa di calore. No, la stavolta mi aveva pigliato 200 euro ma piazza a mia. Chi sono vice bucaccione? E chi da qui la bruma idraulico vice. E mi è durata 3 mesi. La diamante non ha più riposo. Aggiungiamo a davanti, è giunto, mi ha caricata, gli ero spiegato il problema, ma a meno che non c'è perdita. E vabbè, avrà problemi così. E poi si è scaricata. Poi ne ho chiamato un altro, mi ha caricato e mi ha detto, come ti dà giudizio a te? Solo che non ne vale la pena portarla via, metterla a provare dopo la perdita. E comunque, che cazzo che anche mi fu? Non mi compagni più. Io li smonto, appena me la in mano, rilirà me la compro direttamente, no alla bricco, a un negozio dopo le prendo che ti la piazzano e tutto. Allora qua di Bruna anzina, o no? Sì, già è vero, dico che ne fare così infatti, lo dico modo. Questa io sono andato in telefonato, dopo che ho telefonato, ma mi ha detto che mi aveva solo 3 mesi di garanzia, e dopo si è mai buttito. Sono furbi, sono già lo sai più di me, capito? Quello, è il problema che sono furbi. Per dirti, è nuova, non l'ha chiusa da niente, si può dire, l'ha bruciata tra giustale e tutto, a fare 5 mesi, basta, poi è nuova. Se non ho cazzo, non mi conviene una cucciola, me la piglio nuova, se la piglia luce, se non la vicino. Poi campagna ne avevo procurato una, ma era troppo umano, infatti il motore ce l'ho ancora, ce l'ho a fare un barruccio. Me l'avevano data un bar dietro lì, pompieri che avevano ristrutturato, però è enorme, cazzo chi se la non andava lì. Vedete, qua dentro a poco te non te ne fai nulla, a me. Cioè, a parte che fa un bel casino anche. A parte quello, da poi chi sa su c'è un bel burrello. Infatti il coso di dentro si era giù la lampada, mi ho smontato da lì dentro una lì in campagna, le tubi, le rame e l'altro si era giù la lampada. E me l'ho messa alla parte. Allora, quando va giù dentro mi smonto ma te c'è il suo motore, ne giù un rame e me lo muovo la base. Tutto il rame che c'è e l'altro si va a fare un bel rubiccio. Cosa cazzo? Poi è enorme, figurati che me l'avevo portata giù quel carrello di canto in mano e non funzionava mica andomi la data, non è casa non andava. chi sa andare in un locale, ma... Io già non credo, va bene, un locale grande sì, non deve fare nulla in casa di quella, quella è per negozio, quello sarà minimo fa 200 metri quadri, quella può fare il canova. Piccolina e funzionava bene, grande la funzione. E la mese farà da un tubo, cosa vuoi dire? Però non ne diamo più a carreggiata, ma ne manco una corsa. Solo che io volevo provarla a comprare quel certa fuga e punibile, però se non sai dove lo devi spruzzare, cosa posso? Non posso nulla, capi? Perché è bello anche la bomboletta per ricaricarla. Ma se non sei un buoni di mani cosa va? Sì, anche quello già è vero. Quindi, no, boh. Ci sarà scritto nelle spiegazioni come usare la bombola, se usate la bomboletta. Sì, è tutto scritto, o inglese o cinese, o cosa va scritto, o danese. Perché è piccola, è già bellina, non va nulla. Avevo chiesto simile a questa come costava sulle 400 euro, piazza che ci sta 600. Ah, ho capito, quindi la voglia gli angoscia gli altri. Insomma, gli altri vanno in barato, sono minori, non ti preoccupare. Sì, è vero che hai figli, a chi ci ha vado, alla casa li ha presa, di un menificatore, cosa ti hanno deciso. Padre, capi? Insomma, la buona la paghi così, mille, anche se è piccola, come motore di potenza. Però, il bagno si dà per bisogno di 70 euro, che se non si bene a nulla. Quella è senza motore. Chi su di gira lo buttatore, ma con duro che gli rende. Beh, lo so che consumano già, quelli sono i veneti. I più costosi, il fatto di dice. E quelli che non hanno il motore a te attacchi puri, che funzionano in praticamente dentro un rullo con le alette, gira e ti fa l'aria calda e l'aria fredda, però cazzo arrivati dallo puntatore, come ti gira il sapento. Sì, fino alle 6:05 stava parlando con me, poi è venuta gente, c'ero io e Gian Maria e poi stasera era preso, ce l'avevo acceso sul 45 e c'era un po' di gente, stavano parlando, ma non sono entrato, io stavo facendo cose e le ascolto, però tutti gli altri canali manco un cane vita. Forse c'era un cellulare. No, non ce n'è la propagazione, non c'era proprio nessuno, nulla di nulla. Sul 5 ho girato, c'erano due, mi pare che uno era cosa, quello che abita, chi con il trattore, non mi ricordo il nome, l'altro era chi deve buttare il gioco e porta legna e carbone. Pinocetto. Sì, Pinocetto è un altro, non mi ammetto lei. Stavo parlando, però non ci sono entrato, stavo parlando di acquistare orzo, piselli, per dare i piccoli a magna. Se vuoi venire qua, mi scende in campagna, lo dico, e metti un paio di pecore, per una settimana poi erba. E infatti Guido la ditta, sono ricorso agli altri Pinocetti, che lui c'ha un bel di piselli, e mi pare le vendegna 25 euro il 15. insieme all'orzo, no? E infatti domani quando l'appuntamento da Gattani si piglia il pisilli, orzo non ne ha, poi dice c'ho un altro po' di roba, però gli metti tu foraggio, misciato, faccio proprio di tutto quella. Sì, pisilli, ma c'è voglio dire, non sapevo che mangiavano le pecore pisilli, la verità, sapevo che mangiavano le erba, ma pisilli tu, boh. Perché dice se gli dai i pisilli ti produce anche più latte, non so cosa vaga insieme all'orzo, e gli si romani, a me non si romani, e ti prova a entrare dentro un campo di pisillavi, ma con la buglia gatte, ma con pisillo. Sai, dai, tu però sapevo quella perché io non sono, non sono di quelli di quindi non, non li uso di pecore. Qualche giorno già me ne faccio prestare qualcuno in campagnatore di spedici scugliatore. Cosa hai detto? Qualche giorno mi faccio prestare qualche pecora in campagna, ho detto, altro che dice spugliatore. Io tanti anni fa ce l'avevo due in campagna, grazie lo fino a un filo d'erba, ma sbavi a brulano, nuda, erba non finirà nuda, la prima gli vedano i buchi, dove la nuda e la brulla molto ciappata, anche la girava raggiunta per mangiarsi le radici, certo Maria un campo di guerra, manco una buglia venite erba, nuda. Ok, mi sa che ci riescendo un paio di pecore giù, e almeno non consumo benzina. Io si conosce già che lui che fa i piccoli, che vive in giro, lui rientra dei piccoli, lui si mangia l'erba. Adesso si mangia e metti la base nei miei, a raso terra. È bello così avere il terreno. Non è pecco, ecco. In campagna quando c'era non se la mangiava niente, non li dati rimasto un tempo di grisci, tra le pecore, gli adisi mangiavano di sicuro il pietrolice, tutto è, no, tu non adattavi nulla, ti devi sempre piccoli tenni in terra, e che ti sempre mangiati, per carità, però c'erano belle. Sono andato a beberarmi un po' di acqua. Poi c'era anche poco fa, ma siccome entra decido, bombo vida, ma ben, siccome tutti vida. Ma ti dati provata a chiamare, stasera, avete visto che gli era dall'altro bianco. Ed evidentemente non c'eri. Allora poi bombo se ne è andato. Entrando Gian Maria, e dico con Gian Maria, solo va giunta niente, a Gian Maria aveva fatto le pittate, ha detto che se ne andare prima ho provato male. E verrà lì, accenderà senz'altro, dopo. Sta tranquillo. Oramai la gente se ne andrà male, a farsi la passeggiata, a mangiarsi il gelato. E mi si è rugiato, me l'ha mangiato in casa, ma... Ma io gelato non ho assaggiato ancora, oggi ho mangiato poco mangiato. Ieri notte mi sono divertito e mi sono alzato allo violato stamattina. Ah, e allora l'hai abusato da rimane, è bellissimo. Oh, oggi noi abbiamo mangiato un bel... L'ho fatto gli spaghetti, fiori di zucca, ma però quando c'è troppo caldo il pomeriggio, mangi male, la sera non vorrei così mangiare a chi vai un fraschetto, hai capito, l'aria sta fresca, ti viene più l'appetito. Io non credo che ti viene l'appetito, non tanto vuoi fare mangiare, tanto ti viene anche a voler incominciare a bere acqua tutto il giorno. Quando c'è lo stomaco pieno d'acqua. Allora, va, per carità. faccio l'insalata, frutta, non me la faccio da oggi la notte, mangio più bene. La notte come mangiare roba fresca, capito? Verdura, patate, vedi? Si mangia meglio. A pranzo al limite qualche cosa calda, ma pasta, non so. Perché tanto non ti viene anche la voglia. Una bella salata, fagioline, patate e uva turchi, invece mi agone e giunta con l'uso d'arriva. Oh yeah! Infatti, già è buona cosa, sta fatta così. Ti viene anche l'appetito, ti viene. Io non credo, l'altra sera di un miliardo, che ci bicette rotonde vendono allo supermercato, quelle piccoline, no, sono anche un panino, però sono piatte, no. Mi ha rifatto un fornetto, vabbè, diventava un buon giorno, beh, allora mi ha rimaniato due, ci ho messo il tonno sopra, l'ha ripicchiata, ho messo un panino, mi ha rimaniato due, ma non avviso, con il tonno. Non so, quelle pizzette le sono offerte da Ruspinto, 12 pizzette. Cioè, sono buone, le ho assaggiate anche io, stamattina me le ho mangiate anch'io. Sono buone, sono, le scaldi nel fornetto, le ho pure nel microonde, dentro poi 5 minuti e allora fai una buona colazione, altro panino, con prosciutto o un coso. Ti mangi quello, ti metti il tonno, ci puoi mettere quello che vuoi sopra. Ehi, a parte la devi mangiare, chi non la devi lasciare in frigare, a chi mi ne lavanta da una, che poi se lo vorrà di te domani me si mangia. Ma adesso tutta la bugiura di intorno, si è fatta dolce a cavalla. Vedi perché sono precotte, già lo sai. Infatti, vabbè, ma va, che non so, quando la cosa me la mangio giù, così non ne davo più. Però ti dico, che faccio mangiare due me, proprio leggero, noi le pisate ne nulla. Ma non sai, un risucare da va, così no, non mi piace brutti, vuoi, a stare un po' vinto, vuoi. E mi lasciati ancora quando è avanti ieri, e, no, prima di avanti ieri, ho fatto risotto e insalata. Poi ho preparato le trunte già a noi, mi sono preparato ore, 30 arriva, di tutto. E avete preso la ribusca e il frigorifero, buono, eh? Non credo che è buono. Appetito ci vuole. E allora, da questa ribusca, pure la maionese in alto, giusca. Infatti me ne era rimasto un po' nel frigo, ha detto no, no, qui c'è la bomba rugale, perché altro di... L'ho messo al cane, ma qui c'è la rugale. Gama, gama, ui, ui. Adesso mi metto a fare il microfono che c'è un pochino più di... Non c'è il sole in camera adesso. Aspetta 10 minuti che già dentro fa poco, devo saldare un microfono così me ne controllo. Ehi, dammi chiamata, già lo è acceso, lo lascio acceso qua, stando vinto. Io sono adesso perché c'è tutto il giorno il sole in camera, quindi sono davanti al tavolo, cioè arriva il sole, vado per saldare, già il sole è caldo. Più il sole scendeva, il sudore deve scendeva la fronte. Perché il vetro fa la lente, ti scusi il salvezzo, non ce l'hai lì la tendina oscurata. Ma se ho la tendina oscurata non riesco a saldare, che non ci vedo un tubo, capito? Beh, mettine una di quelle trasparenti che è nera però filtra la luce, le vendono. Sì, la comprerò una di quelle, in seguito. Vediamo fra poco, là. Ehi, già sono qua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, come sto scendo? Prova! Uno, due, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Me 5-6. Così è più bassa, però che è pulita. E così è più alta, giusto? Così è più bassa il tono della voce. Di questa maniera da prima era più forte. Guarda un po' adesso cosa è cambiato. Come tono di voce era meglio la prima volta. E così cosa succede? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come radio è pulita, si sente anche a fondo l'eco, a sottofondo, però bella e bella, però è più bassa. La prima di tutti è fortissimo. Così la prima di tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ma copia, se riesci tu qualche voce. Guarda qua adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così già va bene, come radio è pulita, come tono di voce. Però all'inizio sei uscito forte squillante, capito? Ecco, guarda lei così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così ti sei abbassato molto. E così ti sono trovato normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, se così è normale, va bene, pulito. Però prima è fortissimo. E ho capito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intanto avevo modificato questo bene, metto al centro. Cava, cava. Bene, adesso è più forte come tono di voce. Meglio così che sia più forte. Ma cosa lo stai riparando? Ma devo modificarlo, aspetta un attimo. Eia! L'ho messo in questo barattino qua perché devo modificarlo, capito? C'è lo sbrider che non funziona e glielo metto nuovo. E poi vediamo un pochettino di sistemarlo. Cava cava, buon conto. E io gli metto un coso dentro, in modo che sappia gli faccia l'eco molto forte. A cenare, o deve andare a comprarlo. E lunedì vado a comprarlo, i due trimmer, capito? Anda bene, perché rimetto un altro microfono suo. Ehi, alla GBC lo compri. Sì, alla GBC, aspetta, intanto che hai bruciato, sì. Corvo, rispondi Corvo.